la abbassi e poi la rialzi. Allora, ho preso e siccome non mi è piaciuto il segnale che uscivo in tutti i posti, capito? E quindi ho preferito agganciare in orizzontale nel terrazzino dall'altra parte dove c'era la magnetica, l'ho lasciata lì. Va bene così. Venga, ma dimmi la le finestre voi ce l'avete verso via Guarda Basso? Adesso è passata anche la finestra via Guarda Basso, sì. A primo piano. Messa in orizzontale, non posso vedere verticale o no, cosa mangia, ma matto sì. Se stavo in piano di sopra, a caso, io stavo quello con segreto, me ne tagliavo la canna a pesca. Ma non passa qualche, come si chiama, fluviale vicino a voi? No, non ne passa mai il culo. E se non ci stavo già pensando a mettere la sopra, non ti preoccupare. No, non va bene. L'unica cosa che posso fare è cercare di comprare 50 metri di cavo e provare a passarglielo da qui, arrivare a piano di sotto, da piano di sotto, agganciarlo al tubo suo, in pratica devo eliminare il cavo TV e in pratica devo fare un casino, devo fare, capito? Perché tre cavi col tubo da 16 non ci passano. Scusate se disturbo, volevo dire ero chiusa, sto chiamando il mio ascolto, e c'è stato un prezzo da che dormito. Allora, senti, torna a te Claudio. Ciao Claudio, mi hai sentito? Anche se oggi non sono le condizioni ottimali perché c'è il QRM, questa propagazione è allucinante, tu sei 9-10, ma sei proprio al limite. Ok, vai a Tone per i saluti a Claudio. Ciao Claudio, sono tu, mi hai sentito. Me ne sta ascoltata, però sei chiaro oggi, l'altro giorno quando ho risolto quella specie di urinale, che più lineare mi sembra un urinale, è troppo vecchio, secondo me c'ha problemi di condensatore da cambiare, cambia i condensatori e vedrai che esci meglio. Sì, sicuramente. Ma io dico ti ascolto sempre bene e forte, magari qualcuno, quelli un po' fuori mano, dai, avranno difficoltà, ma io ti ho sempre ascoltato sempre bene, non meno di 9 mai. Comunque ti saluto anche io, Claudio. Ma sai, ti stava salutando l'Italia, no, avanti l'Italia, forse avete parlato insieme. Forse perché non ho finito per la propagazione. Ho detto che lo stavo salutando a Claudio. Hai sentito Claudio? Che ti saluto anche io, ho continuato un attimo, stavo sistemando. E comunque sono qui, potete rilanciarmi. Ehi, come mi ascoltate con questo microfono rispetto agli altri giorni? Io dico così, mi ascolto sempre bene. Una modulazione diversa, però secondo il mio parere va bene. Ok, e tu Antonio che sei vicino? Ti ascolto benissimo, la verità. Ok, tu Claudio, con questo microfono come mi ascoltate? Io mi stavo pigliando una birrotta da bermi. L'unica cosa per Giovanna è una canna sopra il petto, ma devo studiare qualche cosa per poterla far scendere giù. Hai capito? Adesso vediamo un po', la strumentazione ce l'ho per Giovanna, i macchini ne ho due, quindi cercherò di... adesso vediamo un po', perché stiamo decidendo di mollare qui, cercarci una villetta, hai capito? Ma dobbiamo essere tranquilli, che non ci devono fare male a nessuno, il condominio non è nulla. Ci vediamo con due antenne, una a lei, una a me, allora parliamo tutti e due. Ma tu a che piano sei Antonio, per curiosità? All'ultimo. E sotto di te quanti piani ci sono per arrivare a Giovanna? Ce ne sono altri due. E non c'è modo tu per dire, tu ti porti l'antenna di Giovanna sopra, cioè te la passi da casa tua e poi te la passi a lei giù. Non c'è, avete un passaggio o qualcosa? No, assolutamente, non c'è nessun passaggio, magari è passato così facile. Neanche utilizzando il vano ascensore. Ui, ascensore, ma sei scemo, sì. Qua i capi d'ascensore non ci arrivano. Non hai capito? Non è così facile, no? È un coso. Un bestano che è stato fatto. Se mamma va comprato, per dire, l'ultimo piano come ha fatto, poi il piano di sotto sarebbe stato una cazzata. Avrei sceso direttamente lì, il capo direttamente al piano di qua sotto, non c'era stato problema. Avevo avuto anche una spostata io lì, per dire, di anche 3-4 metri. Purtroppo mamma ha comprato il primo e l'ultimo, perché lì era fissata col primo piano, non voleva fare cosa, non voleva fare quell'altro, capito? Quando è venuta per comprare, va a far cura lì e purtroppo ha trovato, cioè ha avuto il primo piano e la mansata. Ma dimmi una cosa, le finestre di lì sono dalla stessa parte della tua, sono gli altoparlamenti, gli appartamenti danno tutti e due dalla stessa posizione, o sono sfasati? Sono sfasati. Allora quello può essere un problemino. E passarli, diciamo, in facciata è brutto, ma che non riesci a passarli in un fluviale e poi fare un passaggio laterale, non si può fare. No, l'avevo già fatto io, me l'avevo fatto tutto oggi, se ti ricordi, abbiamo tre cavi io. E invece mettendoli un coso, tipo, come si chiama, con le curve per mettere l'antenna parabolica, montando di lì una cosa, nel terrazzino, una bubera. Non esce, che c'è metà armato questo palazzo, hai capito, non esce, ci ha fatto la prova. Addirittura ci abbiamo messo la gran play una volta, non usciva nulla. Allora devi salire sul tetto, non so cosa dirgli. Ho piazzo 15 metri di palo dalla travanza fino a salire sul tetto, ma sei matto. Non me la fanno mai piazzare a me una cosa del genere. La calata, il brutto è la calata, perché vedi, li metti, utilizzi il palo tuo, dall'antenna tua, li metti una gran plane sopra la tua, per dire, o di fianco, non lo so, una mini gran plane sopra il tetto, e poi fai scendere la pluviale, solo ci vuole un bel di cavo. È un casino, hai capito, veramente è un casino, se no. Cioè devi fare tipo ponte ripetitore, salire su un mini trasmettitore, cioè teoricamente si può fare tecnicamente, ma sarebbe troppo complicato con un transponder, cioè vedi, lei con pochi milliwatt esce sino al suo altezza e da lì poi spara con come si chiama, con l'antenna. Oh, Robert, dimmi tutto. Pronto, passa di nuovo il satellite. A che ora passa? Non l'ho visto. Ah, è il 54. Le 21.54, ma oggi non passa vicino, mi sembra, così. Non mi ricordo, però dovrebbe vedere comunque, sono un amico che dice la verità. E adesso il telefono a carico, se puoi guardarlo tu. No, passa molto in alto, passa nella parte alta della cosa, dell'Europa, diciamo sulla parte a nord della Germania, non tocca neanche la Spagna, poi va nell'Ucraina, passa molto ma molto alto, all'Italia è molto lontano. Ah, lo hai guardato? Sì, lo sto guardando adesso, ma passa, aspetta, non è male che è già passato, mi scusa. No, perché ho visto sulla Sardegna, su sulla Sardegna ha detto, prossimo passaggio oggi alle 21.54. No, è già passato da parecchio, passa alle 23.09. Ah, ho capito. E poi domani passa alle 0.45, ma non è, poi passa di giorno, non è un granché domani, vediamo, no, fammi vedere quello delle, sì, anche oggi passa molto lontano, passa alle 23.09, il picco alle 23.10 e finisce alle 23.12, è ancora diciamo un po' più della metà come qualità, però ieri era molto migliore, purtroppo ieri c'era troppa luce. L'ho visto. Claudio, malissimo, sei tutto ossato. Pilota Quevignale con pochi watt, se vuoi che sta bene. Avanti di nuovo, Claudio. Sì, adesso meglio, il segnale rispetto a prima di 900, non mi 900, 9 più 15, adesso sei quasi 9 più 10, però la radio è chiara, prima eri completamente muto. No, sei basso, ti toglie tutta la radio. Un po' meglio, prova a parlare. La radio è chiara, però sei troppo compresso, ti brucia un po' di radio, il segnale è forte. 9 più 15, però la radio quasi ne esiste. Sì, la manetta come cosa? No, la radio è chiara, ha migliorato tanto rispetto all'altro passaggio, però ancora non è l'ideale, dai. Oh, Roberto. Dimmi. Comunque, io non ne potevo più domani, visto che fine settimana tutti in camper. Andate col camper? Sì, con la cellula. Ehi, ok, dai, sono contento, dai. Almeno tutti la giornata, dai. Ti portate anche il parapendio appresso? Tutto. Vogliamo svagarci visto dopo questi diversi mesi di quarantena, non abbiamo fatto niente. Prova a fare un passaggio più lungo. No, adesso ti sei abbassato tantissimo e la radio quasi nulla. Ma la stai toccando, il pilotaggio, cosa stai facendo? Allora passi da 9 a 9.10, 9.15, cioè dei cambi repentini di segnale, però la radio è inesistente. Lo aspettiamo in corta, già. Occhio a non bruciare l'amplificatore e anche la radio allo stesso tempo. Stazionaria e controlla, so che ci siano dei rientri. E dove andate, Enrica, domani? Argentiera. Ma dormite lì? Sì. Cosa volevo dire? Ma dove andate? Dopo Porto Palmas, in quelle salite lì? No, praticamente per Argentiera dico Porto Palmas, non so se lo conosci, più o meno un poco prima, 500 metri prima di Muso di Porco. Aspetta un attimino, tu allora fai quella salettina serrata prima di entrare, cioè anziché andare per Porto Palmas fai la salettina e poi giri a destra. No, vado a Porto Palmas praticamente per Argentiera, che è Porto Palmas, è praticamente dove c'è quel baretto. Non so dove è il baretto, lo conosco, ci vado spesso. Allora c'è il baretto dove c'è il prato verde e tutto quanto di lì. Tu dove vai? Sali, anziché entrare di lì, sali con la salettina ripida, serrata. No, entro dove c'è il bar. Ah, e beh, cosa fate di lì? Di avanti è bello, c'è tutta la salita per il parapendio, con cui si può fare il parapendio, poi lì di avanti c'è un bel pezzo in cui si può fare il bagno, lì è bello. Sì, lo so, io ci vado sempre di lì. Allora, quindi il campo lo lasciate lì dove c'è il bar, in quel piazzale dove mettono tutti, vicino a dove c'è il rimessaggio dei comuni e delle bar. No, negativo, più avanti, praticamente lo mettiamo dove c'è. Dove c'è la salita per il camper, non lo lasciamo lì nel baretto, andiamo più avanti. Dove vado io di lì? E poi giro, che poi ci sono quelle spiaggettine piccoline, ci sono degli scogli, delle pozzanghere di acqua, di mare, di lì stai. Andiamo un po' più avanti al bar e lì è buono, come ho detto c'è tutta la salita per andare in parapendio, poi c'è un buon punto bello per farsi il bagno e lasciamo il camper che lì da lì vedi tutto il mare la notte ed è bello e comunque lo lasciamo lì. Quindi dormite di lì domani, diciamo, sappiamo che ci sia niente, io la metto da me così da solo, sinceramente, boh. No, perché ci credi che io non pensavo, praticamente lì non ci va mai nessuno, cioè, finita la quarantena, l'altro sabato era pieno, non è l'altro sabato, era pieno di gente, turisti, facendo sul bagno, era pieno di gente la domenica. Ok, facciamo vedere un attimino Claudio se ha risolto. Avanti Claudio. Nulla. No, ma dico di lì è molto isolato come posizione. Adesso vabbè, se c'è gente va bene. Che tra l'altro adesso sta passando la forestale e non vuole più vedere camper. Non sono mai fatto storie in 2 anni che hanno camper. Dall'anno scorso lo stanno facendo, hanno messo un sacco di contravvenzioni, ma tante. Infatti l'anno scorso sono andato una volta soltanto e poi un'altra volta a fare un giretto così, però non a rimanere fisso, perché hanno messo un sacco di contravvenzioni. Infatti questi imbecilli non sapevano cosa fare, volevo che ti dica. Cioè, ma che fastidio hai di lì, non ho capito. Ho capito, no, ma dietro non vede nessuno, non vede niente nessuno, praticamente è dietro una macchinetta. Ma loro girano con polizia, fanno il giro, no, già, vedi, non ti preoccupare. Magari possono dire far finta di niente, speriamo che siano un po' più, come si chiama, di mente aperta, perché molte volte vogliono fare gli splendidi e si mettono a cercare persone, queste che non danno fatica a nessuno, anziché andare a cercare chi veramente sporca e inquina. Ok, vai Antonio, riprenditi il mic. Allora, mettiti palacchino, devi in campo, vogliamo che ti sentiamo, da lì già arrivi. Lo so, mi sono già organizzata, mi sono detto che mi organizzo, non posso, devo avere sempre una radio con me, non avevo questa distanza, mi sono già organizzata con l'antenna, una veicolare lunga e me la sono piazzata sulla scaletta sul camper. Io non so però se faccia bene massa, l'ho vista ieri Riccardo, raccata dietro nella coda della cellula, quella lì sta dicendo. Ma l'ho sollevata, abbiamo controllato le stazionarie, ne ha poche, 1.5. E riesce a irradiare, non lo so, perché la cellula è tutta in risio, non lo so. Vediamo un po'. Comunque di lì riuscite, dove vi mettete voi, riuscite a ricevere da Sassari? Penso, penso a torre di controllo e anche a te. Ok, dai, infatti mi ha detto l'altro giorno, no, pensavo che lì riuscivamo a arrivare perché è un po' nascosto, se scendi giù alla gentiera dove c'è proprio la miniera di lì e non piglia nulla. Sì, diciamo è tutto aperto di lì, c'è il mare aperto, non c'è ostacoli, è una bella posizione, il mare è bello. Ok, vediamo Claudio se è rientrato, ci sei Claudio? Vabbè, ma tu comunque ti sei ancora organizzando per il camper? Questi paio di giorni non ho fatto niente, dai, il lavoro grosso l'ho già fatto, ma io ho l'altro di camper, quello è quello piccolino che lo utilizzo per andare in posti dove non si può andare col camper. Ok, no, stavo richiamando a Claudio Di Muro, sono avanti Claudio, se ci sei batti un colpo. C'è qualche donato qua sul 10? Quello è fuso tutto, questo lì appena comprato, trimato, bisogna stare attenti, io questa cosa a me non mi sono mai piaciuta. Gioia. Mi sembra che già la quarta volta che brucia di via le mie cose. Attaccano un PL, cosa del genere, in corto, poi fu tutto lineare. Ma poi bisogna come sempre fare un filtro, io c'ero uno schermino che me l'hanno dato con un condensatore, quello VK200, me l'aveva dato il coso, come si chiama, quello di Giovanni Ritti, di quel tecnico. E che cosa tecnico è? Vai, fine, no, vai. Vai, carità, ne ho avviato poca roba a quello. No, oh, già è bravo, nel suo lavoro già è bravo. Ui, dai, lascia perdere. Ma chi stiamo dicendo, la stessa persona? Sì, la stessa persona. Quello che ha pigliato il lineare di cosa, di un tipo di... Aspetta, lì. Ha fatto una bella malambetta. Comunque non ha cavato piedi. Gli ha detto che gli faceva linea lui, cosa del genere, non ti preoccupare, lo faccio io, la buona non ha fatto nulla. Gianni Vitti stai parlando tu. Sì, Gianni o Giovanni, dai, adesso non ricordo il cognome. Ah, io ho visto, ha fatto dei bei lavori, belli amplificatori, ho visto dei bei lavori molto, molto importanti, cose un po' delicate. Già me le immagino qua. Per carità. Non lo so, per quello che ho visto delle belle cose, poi se ha fatto dei danni non lo so, questo non te lo so dire. Ok, vediamo se Claudio Lavuros ha scoppiato qualcosa. Claudio, sì. Aspetta, ciao, salve, ultima, guarda, meno male che domani è sabato e ci abbiamo un po' più di tempo libero per riposare. Claudio, ditemi, ma ditemi, senti a me adesso, stavo seguendo. Cassio di Furos, è meglio che ti ho fatto lineare, mica l'hai già bruciato quello. Oh, io cambiati l'antenna che è meglio. Brecco. Certino, il lineare mi ci ha cadato in fumo il tuo. Ah? Sì, poi è entrato, ha fatto 5 minuti di questo e meno, poi ha preso e si è sceso il segnale, quel lineare, chissà cosa ha combinato. L'antenna piazzata, raga. L'altra sera parlando con lui qua. Dimmi, che idea. Ah, aspetta, che a me mi scappa la vista. Speriamo che non ci siano stati dei problemi, perché questo dei cambiamenti di segnale molto molto repentini, da 9, 9, 15, 9, cioè di poi di colpo tu mi hai sceso. Cago, 9, 9, 15, e se arriva qua, vabbè, io qua lo ascolto Santiago 3. Allora io, lui quando è entrato stavo scendendo intorno ai 9, 9, 5, poi è arrivato quasi a 9, 20, 9, 15 abbondante, poi di colpo stava la voce, però gliela toglieva la modulazione. Ha abbassato un pochettino e ha migliorato, è sceso a 9,10, poi dico ho fatto un 9 e non l'ho più sentito. Poi allora è in disaccordo, è in disaccordo e senza antenna pure. Tutta la sera io qua facendo delle prove, tutto quanto, gli ho mandato anche il video, lo stavo facendo con il Midland 48, perché con questo che sto utilizzando adesso, per dire la verità, usciva un po' saturo perché ha troppi watt di entrata. Ho fatto da lui, ero Santiago 3 senza niente e arrivavo a 7 attaccato. È tanto, quindi il guadagno c'era, ma anche qua ha guadagnato tanto, niente da dire, però c'era la voce satura. Io ho detto forse stai troppo pilotando, li fanno troppo pilotaggio, ha abbassato un po' il luzzino e la radio andava discretamente. Dai. Poi di colpo si è abbassato il segnale, lo vedo salire, cioè, poi adesso lo stiamo chiamando, speriamo non abbia fatto danno, perché mi dispiacerebbe, una radio o un apparecchio appena comprato è brutto, una bella delusione. Ok, c'è anche Riccardina, avanti Riccardo Pertino. Saluto a Muscolo, il muscolo della 27. Ciao Riccardina, ciao. No, anche perché Roberto, stavamo facendo delle prove proprio per far vedere quanto incrementava, quanto rendeva, ecco. Io gli ho detto guarda, sinceramente devi accordare bene, naturalmente non devi dare oltre il massimo, esagerando 10 watt, ma proprio esagerando, ho detto se ne dai 3-4 ancora meglio. È la valvola poi? Sì, è la valvola. Diciamo con le valvole resistono un po' di più, speriamo bene, dai. Il problema è con l'antenna che c'ha lui, oltre tutto il resto. Veramente c'è l'antenna, perché è molto bassa, se è efficiente, se stai radiando, se c'ha le stazionarie troppo alte, tante cose ci sono da vedere lì. Cavolo, però se mi metti un'antenna con le stazionarie è logico che te lo flippi, non è che. Speriamo bene, dai. Aspettiamo. Eia, ok, aspetta, facciamo un attimino di bianco, vediamo se qualcuno vuole entrare nel frattempo. Attenzione, 10 che vuole entrare. Nisa, vi facciamo una chiamata a Muros. Attenzione, Claudio Ramuros, se ci cuppi avanti. Nulla, come non detto. Io aspetto ancora qualche minutino, poi me ne vado perché ho gli occhi un bel stanchi. Ci sono proprio, è stata un po' pesantuccia questa settimana. Ok, vai Riccardino, avanti a te il mic. Ok, devo ancora andare a mangiare, quindi adesso vado, perché sai com'è a casa mia, prima dicono che è pronto, poi non c'è neanche apparecchiato, e adesso sembra che sia tutto pronto, quindi ci sentiamo domani, domani mattina ci sentiamo, perché prima dopo le 11 è stato fatto verso le 2, e quindi prima le 2 ci sentiamo. Ok, dai, se coincide sono un piacere sentirti, ti accompagniamo magari durante la camminata verso l'Argentina e vediamo chi è che arriva più forte. Va bene, saluto a Muscolo, Roberto, saluto a Muro, poi saluto a Giorgio. No, Carolino, dai. E rilanciamo Antonello per i saluti, che poi passerà a Tina e poi saluto io. Vai Antonello, mi dovevi questo è il muro, se sto uscendo male. Avanti, Claudio. Guarda tua pagazio. Ma qual è dato? Quello a 2, Tino? Non mi hai dato quello a 2, no? Purtroppo sì, mi ha dato quello a 2. Quello era una bomba, Ci l'ha bruciato, guarda, noi. È un casotto, quello era forte. Ciao Riccardi, comunque dai, facciamo girare un attimino per i saluti a Riccardo, dovrebbe andare a fare carica a batteria. Grazie, c'ho anche la lirica in casa, aspetta che abbasso la televisione. Ciao Riccardi, dai, ben sentito, alle prossime, vai a fare per i saluti. Ciao, ci sentiamo Riccardi alle prossime. blu blu che aveva fatto notare stasera già. No. Ha vissuto un lineare cazzo in 5 minuti e mezzo. Quella era la storia del lineare, porca miseria. Insomma, come stavo parlando, Antonella, e le valvole diciamo che erano all'80%, mi dispiace, speriamo non abbia bruciato, cioè che non abbia bruciato il lineare, ma al limite bruciato il baracchino, ma se vediamo un po', se rientra già, vediamo un pochettino, al limite metterò un'altra baracchina, se vediamo rientro, detto, pilota con meno, e ti stacca, che sei tutto stato. Perché andava da 9,25 piano piano, cioè scendeva lì di watt, facevano 25, 24, 23, 22, dopo che è arrivato Santiago del Bo e Parizzo. Avanti! Per tutti, per una bella partita. Chi sei? Master! Ah, ciao! Basso, sempre basso, porca miseria, ciao, scusami, ma a volte la propagazione ti chiude. Avanti, dai, vabbè, se ci sei ancora, sono Riccardino, se non sei andato a mangiare, a fare carica. Dipendo io, tanto stavo andando via la prima, mi dispiace per Fabio che è appena entrato, dai. Ciao a tutti, ciao Fabio, l'ultimo arrivato, ciao Tino, ciao Antonello, credo che Riccardino sia andato a mangiare, dai, io faccio correttino, mi sento un po' affaticato oggi, dai, ciao ciao, buon proseguo a tutti, buonanotte da parte mia, correttino. Ciao Robe, ci stiamo alle prossime. Ciao a tutti, Fabio, ben ascoltato, avanti Tino. Va bene, ciao Robe, ciao. Allora, dire ben ascoltato a Fabio mi viene difficile, però ciao Fabio, sì, Santiago 3, radio quasi inesistente quando c'è propagazione. Vabbè, un saluto Roberto e anche il cammino. Cambio radio, prego, da con voi. Sì, 9,25 qualcosa a me, come radio, che sei brutto, Vabbè, ma siete attaccati Antonè, io sono nella Grande Valle, porca miseria. Adesso già mette l'altro, il 3000 e sì, mette, vedrai come lo senti. Boh, e se è rientrato Claudio, ci si, da Muro, Chiodo, porca miseria. Oh, tutta la sera fa un nuvolone con quella radio, lo so, con quel volare. Questa è la seconda volta che accendo le linee, non è la prima. Ho lavorato più di 181 e ci ho lavorato quasi 6 giorni con quello. Ho venuto a ritirarselo, trovo a lui, quanto avevo fatto? 24 ore è durato. Figurati, a padre, no a lui, vabbè lui non è colpa. Ho fatto 5-6 passaggi a voi, non è tema, mi ha chiamato, dice si è incendiato tutto il trasformatore. Cazzi, per me è fatto, ho detto. Ah, boh. Non lo so, mi ha detto. Non sei tu, ho detto. Come è tratto? Come è finito? Fabio. Prova Fabio. Guarda un po', aspetta che mi trovo questo olio da sotto. Eccolo qua. Così forse non fischio neanche. Mi senti meglio? Sì, hai migliorato, dai, hai migliorato. Va meglio. Se non c'è qualcuno in propagazione che supera il Santiago, sì, adesso ti sento. Questa è la differenza tra 4 watt meno qualcosa e stavolta lei. Quanti facciamo sto normale 84 ore sveglio? Dovrebbe avere 10, a quanto mi ricordo 10 e 15 dovrebbe avere. Abbiamo fatto uguale a quello che c'è, guarda, dovrebbe essere uguale, si ritarda su di tutto. 15 sono allora, se uguale a quello che è, sono 15. Io ho fatti tutti così, tornavo, 2006, 2009, tutti 15, ma è. Insomma, qualche volta servono sembra, così magari qualcuno mi sente meglio. Ascolta, come radio come ti arrivo? Più chiaro, tolgo l'eco, c'ho l'eco, non lo so. Ma va bene qua, perché la tiro un po', se no a me, normale passi ti do lo spedicetti e utilizzi quello a casa tua, tanto io non sto usando, almeno ti ripeti un pochettino. No Fabio, vai bene, non mettere l'eco perché non ce l'hai, va più che bene. Antonè, comunque niente, ho saputo la novità. Della tela. Cosa è successo? L'ho piazzata giù nel terrazzino e hai capito? È passato così, mio, è passato, si è fatto un giretto del palazzo, che era il pazzo, diceva quello, mi ha fatto, dice che l'antenna che è piazzato, dice lui, ma va bene, è antiestetica, cosa del genere, cerca di, mi ha fatto di toglierla, e io gli ho risposto a cosa, a tono, ho detto guarda, ha detto, quello l'antenna, ha detto serve, ha detto, parlare, ha detto, mio nipote. Quindi gli ho detto, quanto non lo tolgo, prima cosa. Seconda cosa gli ho detto, non è l'antenna che c'ha un palo, come è tutta una canna da pesca. Quindi ho detto, la posso abbassare solo male quando voglio. Ah, no, allora se così va bene, mi ha detto Antonè. La può utilizzare, ma ti pare che detto, mi ripotevo, detto, non posso usare il baracchino, le macchine di due coglioni, così ho risposto, ho detto dimmi chi sono, no? E non me l'ha detto, ho detto vabbè comunque facciamo finta di niente, so già chi sono, detto, me lo immagino, gli ho detto, non ti preoccupare, detto. Quando faranno qualcosa loro, sta tranquillo, ho detto che rompo il coglionino, così ho risposto. Così ho detto la finiamo la cosa, perché ho detto, se io ho installato una cosa, neanche mezz'ora, gli ho detto, l'ho provata, e mi rompo le palle, a un certo punto non puoi ballare anch'io agli altri, detto. Quindi, sappi, gli ho detto che la prima sgarra che fanno, ho detto, i condomini, gli ho detto, sopra di me, sta tranquillo che farò lo esposto, non ti dico neanche niente, gli dico, arriveranno i vicini urbani, gli ho detto, e ci sarà la pace che ci sarà, questo è poco ma sicuro. Ma guarda, c'hai il tuo WhatsApp, Antonio? Certo che c'è il WhatsApp. Aspetta che ti mando un video che ho fatto a casa prima di dare l'amplificatore, va? Così guardi i fatti che sta erogando. Già ci credo perché i fatti che dà di quella Gigio, perché l'abbiamo provato una settimana assieme, quindi figurati, i fatti che li dava. Ai Marco, tu sì che mi cambi il nervo. Facciamo il gioco della calzetta. Comunque quell'antenna a casa l'ho piazzata in terrazzino, in orizzontale, e funziona benissimo. Funziona già 5 dB, anzi forse 10 dB in più dell'antenna della macchina. Quindi figurati tu mi hai visto un'antenna nel terrazzino orizzontale, cazzo. Filare, così ho fatto io. Non si vede nulla, non rompo le palle e esce lo stesso. Sì, ti avevo mandato la fotografia di quel lineare, adesso me lo ricordo, ma ti mando il video, dai, tu lo ascolti e guardi i vatti che sta lavorando. Tu pensa che a muro sono arrivato staccato 3, attaccato 7, c'era l'incremento. Lo so che c'è l'incremento, però secondo me c'ha problemi d'antenna lui. Perché a fare un difetto del genere, che prima arrivi 9,25, se talmente assato non si capisce un affanculo, poi dopo che stava accortando, no? Faceva 9,25, 9,20, 9,10, 9,9, 9, dopo che c'è 7, come se fosse crepato tutto. E perché non è più uscito? Non l'ho più sentito, la verità. Aia, mi dispiace perché è una cosa che è brutta che succeda. Vabbè, Marco. Salve, ero sui canali alti e c'era un bel voluto, ma da laterale, anche stazione inglese in FM. Buonasera a tutti. Marco, scendi tra noi. Sto uscendo? Sì, ma infatti ti stavo per rispondere io, però mi hai preceduto Marco. Ah, eri nei canali alti? Io devo prendere la scala per andare per lì. Però stavo ascoltando più che altro, troppo voluto c'era. Comunque Antonio, tu con quell'antenna arrivi uguale. Ti ho sentito prima, sei uguale all'antennino da macchina che aveva Giovanna. Vabbè, meglio niente già, comunque. La verità. Ma l'ho messo orizzontale, se la metto verticale non succede. Arriva il doppio naturalmente. Io l'ho messo orizzontale, cosa devo fare? se sono passato a tappare avanti ieri. No, ieri l'ho provato. L'antenna, non c'era tutto questo grande guadagno e l'aveva da basso. I segnali sono tutti bassi. Sentivo a Marco, sentivo a Di Cattino, mi sentivo a Santiago 3-4, non di più. Quindi in quel terrazzino non c'è nessun guadagno, ho capito. È tappato dalla. L'unico punto che ci ho aperto è dove la pezza sta adesso, solo che non posso mettere una terra verticale 4 cm di così di canale a pesca, no cazzo. Se no mi incendiano, cazzo, salgono con l'accendino. Sì, però se quell'antenna che penso io. Ma cosa succede qua? È sprecata, messa così per terra in orizzontale, io. Cioè tanto volevo mettere un pezzo di filo. Di filo elettrico, Antonio. Vabbè, vai Tino. Tino in pausa. Ciao Marco, come stai? Chi è? Fabio. Scusate, riprendo il radio, devo uscire che ho un appuntamento con Fabrizio e rientro fra un pochino, devo prendere una radio e poi rientro, a dopo. Ehi, ciao Tino. Fabio, come mai sei più basso di segnale oggi? No, addirittura, ti dico che sono più alto. Apro parentesi, ciao Tino, ci vediamo presto, sarò più tardi o domani. Buon proseguo. Antenna, Marco. 7.5 qua, prima arrivavi quasi 9, 7.5, non puoi aver messo l'antenna sul tetto, no? Ho detto che ho mosso l'antenna, non sul tetto, l'ho messa in condizione di lavorare perché prima non stavo lavorando, non si può andare avanti con 2.8 stazionali, cioè, bruci tutto, anche se sono solo pochi vasi, comunque bruci tutto. Non è in condizione di lavorare, centro ringhiera, gli ho staccato la massa con un condensatore per fargli un accoppiamento capacitivo perché era un po' fuori, non si comportava in maniera normale, si comportava in maniera normale, giustamente mi fa l'altro in mezzo. Il mese prossimo ho fatto sul tetto e ci metto l'antenna, è andato pure scegliendo. Ho capito, hai mosso, avevo capito, messo l'antenna, credo, sul tetto. Eia, il segnale mio com'è, nudo e crudo? Vedi un po'? Oh, hai ragione, tu mi segnale, vabbè, questo tornado che sto usando si è perso un pochettino avaro, però vabbè, sarà appena poco sensibile, ma è molto selettivo. Se rifai il passaggio che ti guardo con la prestazione, però un attimino. Eia, sento un bip. Scusate, io sono entrato a gamba tesa, non sapevo nemmeno che c'era. Ho sentito Pomponio e sono intervenuto per quell'antenna lì. Ecco qua. Allora, sua station 6915. Pulito, pulito, pulito. È strano però, perché a parità di watt, io ho 3 watt adesso, prima diciamo non mi ero accorto di una cosa, ecco. E come può essere tu 7.5 e io 9.15, o segna troppo quello. Avanti il bip, non mi ricordo il nome. Ciao Marco, no, sono io che stavo provando, là. Ah, Massimiliano, tu sei? Sì, sono io, là, stavo provando. Ehi, Pomponio non ha risposto. Antonè, quell'antenna, boh, un peccato era. Cioè, basta un filo elettrico a quei livelli, no? Basta buttare giù i pazzi, hanno fatto vicino a me, vedrai che era cosa accade. Adesso vedo cosa posso fare. Secondo me elimino, come si chiama? Devo passare il cavo. Del baracchino dentro il cavo dove passa l'antenna della TV e il satellite dove sono io, il discorso è quello, da qui, da casa mia fino a giù, che sarà molto difficile che passa, quindi il discorso è quello lì, se no sono beccato una cazzata, ma non posso farlo, il discorso è quello lì. No, il tubo è piccolo, a meno che, boh, non lo so, devo vedere un po' cosa escogitare. Cosa escogitare? sono io, Antonella. Mettiamo un cavo all'esterno, punto e basta, che nessuno rompa il scatto. Lo mettiamo bene, cavo, saliamo più in su, ci vorranno 22 metri, facciamo 15, non bastano, se li partiamo una antenna qualsiasi, e la mi riesce bene. Boom, finito. Anzi, se vuoi, ci possiamo anche mettere la canna fresca. La riportiamo con la buona liquida, la vogliamo lì per 5 anni, funziona. Ma se l'abbiamo fatto togliere a me il capi, ma stai scherzando, non può passare il capo così, no? Lascia perdere. Questo è un condominio strano, hai capito? Faccio prima, guarda, a cambiare casa insieme a Giovanna, a cercare una bella villetta. Cioè c'è adesso villetta, adesso che c'è tutta quella crisi, sai, la gente che sta vendendo le case. Una villetta qua vicino a casa, lì al centro ecologico. Una villetta in due, vendiamo quei due appartamenti che abbiamo, il terreno, e siamo a posto. E non abbiamo nessun problema, né io né lei. Si divide il terreno in due, si mette una mezzeria. Hai capito? Io già poi già mi arrangio. Mi piglierò una macchinetta 50 e sono a posto. Riuscire a fare la spesa. Ma almeno non mi do per bada nessuno. Sono tranquillo, posso usare uno stereo. E non c'ho roba di condominio da pagare. L'unica cosa che c'ho al limite, mi piace un bell'orto, ci metto un po' di cocaina, erba, capito? E faccio la vendita diretta, cazzo. Mi metto il gazebo fuori. Dimenticando da pagare, dove devi? E già c'è alimentare, come fanno, come la Beautiful, come si dice, la non la massata, l'altra, ancora non mi viene in mente il nome, me. Marco, allora siamo già d'accordo, gli mettiamo il traliccio così quando andiamo a modulare da lui usciamo fuori. Allora, le bagasse sono dependenze, la cocaina la piantiamo nel terreno di fuori, la faccia sua, siamo a posto, no? Ma con gli affoggito, così gli avessero tutti. Alessio, sei un po' cuore. Ecco, ciao Gianni, buonasera. Allora, cosa stai sognando? Voglio sognare, per carità, guarda, dove sognare. Se continuiamo così, cazzo, già abbiamo quelle. Adesso dovrebbe arrivare una 15 ore di bolide da sopra, quindi bisogna avere a chi tocca. Dice che ci passano a fianco e non ci fanno niente, stanno arrivando un po' di cantoni. Hai capito? Gianni Dabol. Buonasera, buonasera a tutti, dai, ciao anche a te Fabio. Bella Gianni Dabol, però se lo puoi mettere un attendino per farti gli scherzi come hai fatto l'altro giorno, dai. Non ne ho fatto scherzi, io non sapevo proprio dove abitavi esattamente, sapevo l'una e sole ma non dove, capito? Hai capito lei cosa ha fatto l'altro giorno? Ma la sorte era in giro col portatile, quella tennina, un'altra tennina, quella tennina che non serve un cazzo, di quelle SOS. Io avevo il ricevitore tutto squacciato, proprio con lo squacciamanista, sai quando c'è il tassino con il ricevitore là, quando lo metti a zero, fa pure lo scatto, no? E mi passa a fianco, mi esce questa voce dell'altoparlante, mi ha vibrato tutto. Hai visto? Perché lui stava che abitava vicino alla linea da noi, mi ha detto qui. Che gli hanno fatto un controllo, dice, sì, stai sentendo male, Santiago 5, aspetta, lo faccio il controllo, amico mio, qui 9,60, tutto a falla. E vabbè, con l'antennino è di quelle retrattili che praticamente si alzano, si abbassano, praticamente è così, un po' così, dai, non è un'antenna buona. Marco, buonasera. Buonasera. E allora, con che apparecchio stai uscendo, con che microfono? Adesso ti faccio le domande. Sempre col 3009, però quello sbucciato, diciamo. Ah, quello sbucciato, capito. Per la radio, dai. Ma il microfono normale sto usando? No, l'MB più 5 è messo a 6. Sì, a 6 di volume, sì. Eccolo qua, poi c'ho la voce un po' classica di fine serata della Biocco, sto parlando piano, più o meno. Ma l'hai alzato? Come, l'ho alzato? Come sarai, a metà? No, no, il Michelin è sempre a manetta. Sì, confermo. Ah, in effetti c'è dei picchi positivi di modulazione. Come ti arriva laggiù? E da qua come ti arrivo qua? Qualcuno sta accordando sull'11. Viva le amoriche! E chi è che sta picchiando? Ciao Claudio, viva le amoriche! Gioi. Ma come sono 12? Non lo so, se sono 12 o sono 12 non lo so. Claudio? No, sta accordando sull'11 per disturbare. Per i canali che vi so. Boh, io non so. Tanto il discorso è che dobbiamo uscire tutti con 4 watt, così almeno non ci rompiamo le palle, capito? Come sono io? Io ne ho 4, adesso sto uscendo con 4 watt. Io ne ho 3, vi batto, ne ho 3. Miseri. Lo vado a cercare. Sì, vabbè, poi io posso anche aumentarlo, però non è... Sicuro lo aumento. Faccio così. Così, Cosa c'è, Antone? Cocla. Dimmi. Cocla, cazzo. Cosa c'è? Cazzo, mi ha fatto accendere il palazzino dell'aspetto a fianco. Purtroppo sto provando un amplificatore grande. Come gli anni 80 adesso facciamo. No, ero sul 20 che stavo accordando. Perché dal 20 al 10 ti splatteravo. Ehi, no, niente, ancora non è successo nulla. Ho capito, però se siamo tutti con 4 watt, questa cosa non succede qua. No, che eri sull'11. Io sull'11? No, tu sei imbagliente, io sul 20. Guarda, che l'altro, se quanto è nata, sentivo anche sul 9 e anche sul 15. Ma a me non mi interessa, io quando devo accordare, accordo, poi... Ho capito, dai. Se uno deve accordare, deve provare, non è che deve chiedere permesso a te, no. Io sul 20, non sul 10 né sull'11. Ho capito, però una cosa è slaterale, un'altra cosa è mollare spurie così a cagatura. O ti tiene le spurie dentro casa, oppure esci con 4 watt. Fabio, io esco come mi pare e mi piace, ok? Sto usando un amplificatore abbastanza grosso e ho bisogno di provarlo, quindi non devo chiedere il permesso a te. Fai da bravo, rilassati. Io sono rilassato, ma se tu mandi queste spurie in giro è una cosa carina, è l'unico pure fratelli. Non sono spurie, ti ho detto, c'ho l'antenna puntata sopra di te, ma che cazzo spurie, mica io non agio di mondezza a me. Lo so, ma un palatino a 60 antenna che ti prende su canale, due canali a fianco, non è una bella cosa. Basta usare meno kilowatt, un kilowatt e mezzo penso che ti salti anche la branda del letto. Probabilmente sì, ma non hai detto che mi devi fare andare il letto a mezzo, e cosa avrei io col tuo lineare? Ma appunto, tutti questi discorsi che stai facendo, boh, mi sembrano un po' eccessivi, vabbè dai. Antonio, tu che sei vicino, la modulazione è a posto? Se bevi gli offro il caffè a me, tanto che sei in terrazzo. Apri la porta allora, dai. Mi interessava sapere se la radio era a posto e stavo tarando, facendo la taratura all'FL 2100. Va bene, dai. Guarda, buonanotte, sto terrazzo io, Antonio, sul mio terrazzo. E sul terrazzo di tutti sono stasera, attenzione. E allora ti devo fare il caffè, lo vuoi il caffè? No, che poi non dormo. No, se non dormi è finita, quindi cazzo parla poi. Cazzo, di chi ha rotto i coglioni sono adesso. Ma devi fare rimboscata a qualcuno? No. C'è troppa propagazione in questi giorni, allora devo abbattere un po' l'avversario. C'ho l'antenna nord, quella di 10 metri, però è in mezzo a te, dai, è in mezzo via. Te l'ho detto, c'ho un palazzino a fianco senza antenna, ti stavo cercando e ti ho trovato in 3-4 canali diversi. Senza antenna, cioè, non è che c'ho l'antennino, non c'ho l'antenna collegata, capito? Vabbè, questo succedeva anche negli anni 80, dai. Questa volta è portatile, non me lo bruci. Avanti Marco, fatti bruciare l'apparecchio tu. No, io sono più distante, non si brucia questa distanza. Antonio De Vinti che ci aveva rimesso la radio. E io non sono niente, dai. 550, 600, 750, beh. Puglia comprese? Sì. E questo è quello del camitrico. Tolto l'armadio poco fa, anzi prima di andare a mangiare l'ho lasciato scaldare. Ho dato due fischi, ho visto che non c'era nessuno sul 20, si è pure disturbato, scusate. Però io ero sul 20, anzi bugia mia, ero sul 22 alfa, ecco perché non mi avete trovato. No, è che mi hai mangiato, anzi si è bevuto già mi do più rum. Ma più rum, ci sei ancora che ti sei sparito? Certo che ci sono. E il dovere? Ciao, bravo. Chi è questo non portante, Osè? O Mosca? Sho Mocha? Ecco, che c'è anche la portante, gli altri Marconza. Sì, basta fare Sho Mocha. Puscia via Mosca, vedi, basta passare sopra. Ancora mi sa che mi serve quella cosa, la sposeriamo. Tra un po', vedete, la manto va sopra un pallone. Non ti preoccupate, che torniamo ai vecchi tempi adesso. È tornata la gente, così eh. Già mi diverto poco, cazzo. Va. Mi sta dicendo, mamma perdono, sta amplificato, non ha nemmeno dentro l'armadio. Che cazzo. Adesso basta, giocare con i puffi. No, tolgo la mantova da lì, da quell'angolo, la metto sopra il sistema, sopra il traliccio. 10 metri. Ah, sei già abbastanza in alto. Cosa che scollini se gli altri 10 metri? Rompo ancora più i coglioni. Oh, cazzo, vedi che c'ho anche apparecchi selettivi, però oggi proprio non andiamo d'accordo, eh. Ah, è la portante, La portante c'è. Vabbè, continuate, dai, io vado sul 22 alfa a fare qualche altra prova, dai. Che devo spingere ancora, sono solo a metà potenza. Continuate voi a sentire qualcosa. Questo sì, 1,2 kW, 1,3 kW arriva, ce n'è ancora da spingere, dai. Ecco, a me sta arrivando un po' sacro, appena appena. Vabbè, col lineare. Magari cala appena qualcosa. Alza la potenza. Se no secondo me sei un po' compresso, un po' saturino. Io? Non ne ho compressione. Oh, sono in cuffie, guarda. Nessuna compressione c'è ancora. Fammi sentire, fai passaggio ora ora. Ora ora ora ora ora ora. È meno dinamica, vabbè, stai tirando. Sto tirando sì. Sì, vabbè, io in cuffia c'ho una cucchietta del cavolo e niente. Sembravi più compresso, invece con l'altoparlante sei meno dinamico, finito. Continuate, non voglio disturbare, già non vi disturbo, tranquilli, tranquilli, adesso giro l'antenna sopra Antonello. Sì, già mi piace meglio per quello, porto il cane, aspetto che scendi giù con il cane tuo, così almeno lì un po' di mangiamo erba. Facciamo, mettiamo a 270 gradi verso i punti, dai, così è più ampia lo spazio. Adesso è ferma a nord, tra via degli astronauti e via Grazia Deledda. Proprio passato per questa casa mia. Oh, mica devi stare attento, Clami. A cosa? Ai fulmini? A cane di Antonello. Ah, che sta chi su Gani. Eia, questo c'è un fiuto, cazzo, cane di Antonello. Ogni volta che ne passa una che è particolarmente attillata, sbaglia doppio. Ah, così è. Aspetta che do appena appena più di amplificazione. Ola, ola, ola. Ecco qua. Va bene, dai, continuate il vostro questione, non voglio disturbare, ho detto, dai, che vado a fare due accordi in un altro canale, ci sentiamo dopo, se c'è un po' di propagazione. Ehi, coda, coda, non c'è problema. Coda, coda, coda. Coda, coda. Ehi, già accordo io, non ti preoccupare. Non ha giocato adesso, finita l'area in Berlino, ma qui ci stai facendo un po' rientrare, mi clami. Domani mi sa che devo lineare il V2001, cambio cavo e facciamo dopo le prove. Perché se attacco del 58, cazzo, faccio la fine di cosa di KP2 che ha pigliato fuoco. Secondo me gli ha preso fuoco l'antenna. Cazzo, a proposito, mi ha dato un messaggio. Sassari Gianni Capri 2, ha detto avesse solo a Muros. No, sono a Sassari Gianni. Non c'è più, ha preso le linee di coso, l'ha attaccato, c'è dopo 5 minuti stato, dopo perché è andato a scendere il segnale. Fino a 9, dopo perché è sparito. Secondo me ha fuso tutto. Ha fuso il cavo, che non è possibile. Ma per forza, ma prove da fare sono quelle, cazzo. Aiuto, ma finiamola, dai, di giocare, veramente. Facciamo le persone serie. Assolutamente, non si può giocare con quelle cose, no? Allora, ma vuoi fare, di mattina o di sera? Non arrivati la passi, ti do quel lineare, hai capito? Così, no, tu lo porti lì, lo sistemi. Poi quando piazziamo l'antenna sopra il tetto tuo, facciamo schettere a Claudio e facciamo il buio di Bellino. Ecco, ma io stavo guardando un po' di antenne, a parte il fatto che tipo Mantova, serie, siamo sui 300 euro, ma io vi sono una lemme molto interessante. La Super Lemme è l'unica che c'è, è una bella antenna la verità, però non l'ho più vista in commercio, non so se esiste ancora, ce l'aveva un CB che era, anzi dove c'era ancora quell'antenna lui, perché l'aveva staccata. Il via principessa di Olanda, Sando a fanculo, non mi ricordo dove attiva adesso. Ascolta, si chiama praticamente V3 AC80 Skylab. Praticamente serve una 5 ottavi, però lavora in quarta d'onda. Me la stavo guardando e è leggerina, ha preso un filo 4. Non mi sembra così male. Alla Skylab c'è una cosa, se vuoi c'è me, basta che sali sopra il tetto ti stacchi, la Skylab e la Mantova, c'è detto quello di Abruzzi, non fai altro che andare lì con il seghetto, che è capocondomero con la mola e te la porti via, intera. C'è anche la Mantova addirittura a fianco. È una specie di Grand Prix quella, c'è anche il radiale con uno stilo, non è che sia. No, ma siccome stavo guardando le caratteristiche, anche il guadagno non è così male, 7 decibel, secondo me va anche bene, non è che devo fare questa qualificazione, no? Giusto per parlare con tranquillità, tipo con doppio room, che adesso l'abbiamo anche parcheggiato, che gli arriva un po' bacino di segnale, giusto per parlare un po' con Sassa, e poi quando c'è propagazione passa un filo e parli pure, io una volta con un'antenna autocostruita nel terrazzino dove c'ho questa, ho parlato con Mosca, con questo baracchino qua. Ho capito, ma però per quello per quello ti conviene la Super Lemme, c'era un santo satellite, te lo ricordi, non è che non te lo ricordi. Basta andare dove lavora lui, in banca, hai capito, lì ci sale, ti serve l'antenna, dice no, e allora me la prendo io, perché lui la va staccata, è intera con l'antenna. Ho capito, vabbè, io pensavo che visto che è stato sul tetto magari ne metto una nuova. Ho guardato un po' tipo Mantova, no? Non satura così, no? Fanno le... No. Ci dicono che sono il sostituto della Mantova, la Mantova annuncia. E insomma, per prendere la nuova ci vogliono 300 euro, hai visto? Satura così, no? No, non sei stato, sei chiaro. Comunque, se vuoi la Super Lemme, c'è una Santo Satellite, basta che gliela chiedi. Viene andare dopo lavora lui, viene andare e chiedergliela. Hai capito? Lui lavora in banca, adesso non mi ricordo che banca era, quella a fianco a Piazza Castello, lavorava lì, come usciere. Super Lemme, adesso me la guardo come, io non me la ricordo più per nulla, non mi ricordo più niente. Non mi ricordo più nulla. Super Lemme. 5 ottavi, vero? 5 ottavi, bobina alta, fatta da dare i Grand Prix, piazzati, una bomba era. Io ho smesso di sentire perché non so più a dirti, non sento più nulla. Quindi così non è satira? No. E anche da te, Fabio. Aspetta che mi alzo l'altoparlante. Prova un po'. Vado a vedere. Non è dinamica. È appena compressa. Cala appena il livello, che tanto esce fortissimo di radio stesso. Ma questa è l'ultima cosa. Vabbè, lontananza no, non si sente. Questo è uno pieno, è un kilowatt. Comunque l'apparato sta andando di vero, secondo me sono tutti un vero, capito? Scalano a 10, un attacca, metà attacca. Guarda, ho calato leggermente il microfono, era quasi a metà, l'ho messo a tre quarti. E adesso guarda che sono essi modulati, adesso vi si muove tutta la lancetta, facci dei passaggi con le pause e ti guardi come si è modulato. Guarda che picchi. Sì, stavo guardando.